Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giuseppe Profiti, detto Pino, 54 anni, calabrese di Catanzaro, professore di contabilità pubblica a Genova. Per 7 anni presidente del Bambin Gesù, l'ospedale leader nella cura dei bambini, numero uno nella sanità cattolica italiana e l'uomo di fiducia del Cardinal Bertone. Al centro del caso VatiLeaks 2 del Vaticano, perché sarebbero i soldi della fondazione del Bambin Gesù, gestita da lui, quelli con i quali è stato ristrutturato l'appartamento dell'ex segretario di Stato Cardinale Tarcisio Bertone, più volte inquisito, sempre assolto. Adesso Profiti è qui a rispondere a tutte le domande. Allora, professor Profiti, la ristrutturazione dell'appartamento del Cardinal Bertone l'ha pagata lei con i soldi della fondazione del Bambin Gesù? Buongiorno Minoli, sì. Perché? Perché lì avremmo realizzato nel successivo triennio le maggiori iniziative della fondazione, quelle con il più elevato ritorno economico. Cioè? E lo rifarebbe, insomma, sì. Certo che lo rifarei, solo per darle un'indicazione: nel 2013 gli eventi per la fondazione, che hanno visto la partecipazione del segretario di Stato, hanno determinato nell'anno successivo un incremento della raccolta fondi di oltre il 70%. Siamo passati da una raccolta di poco più di 3 milioni ad oltre 5 milioni all'anno. Certo che lo rifarei. Quindi un appartamento di pubblica relazione, in certo senso, per fare marketing strategico. Assolutamente sì, proprio una delle azioni che erano previste nel piano strategico, ecco, proprio della fondazione. Ecco, il cardinale dice di non aver mai dato indicazione alla fondazione di intervenire. Allora, da dove le è venuto l'ordine? Io non ho ricevuto nessun ordine. Come le dicevo, l'investimento era proprio una delle azioni del piano di marketing, che vedeva come obiettivo questo investimento finalizzato alla raccolta fondi delle grandi aziende nazionali e delle grandi multinazionali estere, soggetti nei confronti delle quali il brand Vaticano, la location Vaticano, la possibilità di essere ospitati in eventi che descrivono l'attività dell'ospedale presso il Vaticano esercita un fascino straordinario e una sensibilità straordinaria, come dimostrano i dati nel donare all'ospedale. Ecco, ma il Cardinal Bertone però dice di aver pagato di tasca sua la ristrutturazione, allora? Ma il Cardinal Bertone ha rimborsato le spese, la parte di ristrutturazione sostenuta dall'amministrazione dello Stato Città del Vaticano. Il contributo della fondazione dato alla fondazione alla ristrutturazione sarà coperto da un impegno formale dell'impresa costruttrice a riconoscere un contributo alla fondazione da impiegarsi per l'acquisto di attrezzature, un contributo da darsi in due rate l'impresa ha avuto i problemi che hanno avuto tante imprese dovute alla crisi in questo settore. Quando sono andato via, la prima tranche non era stata ancora erogata. Senta, ma insomma è un caso, in qualche modo un caso di ristrutturazione una sua insaputa, quella del cardinale. Ma non mi risulta che ci sia un obbligo per i cardinali o gli altri prelati che hanno diritto all'abitazione di servizio in Vaticano di concorrere alle spese di ristrutturazione. Il fatto che il cardinale abbia deciso con i propri risparmi di coprire questa ristrutturazione dimostra invece che non era sua insaputa, ma sapeva benissimo quello che faceva, e mi permetto di sottolineare l'intenzione con la quale l'ha fatto. Senta, però leggere sui giornali, come è capitato in questi giorni, che è stato ristrutturato con i soldi dei bambini malati, beh, insomma, fa un brutto effetto. Beh, direi che, insomma, inviterei, l'effetto che mi fa è quello di invitare a non leggere certi giornali, come credo di aver dimostrato. Neanche un euro dei fondi raccolti per i bambini è stato impiegato in questa operazione, che è un investimento. Senta, anche il viaggio a Potenza in elicottero del cardinale è stato pagato da voi, è vero? Beh, un segretario di Stato, quindi un primo ministro, che deve essere al mattino alle 10 a Potenza e al pomeriggio alle 17 a Roma per ricevere due delegazioni di stati esteri, non può che usare l'elicottero. Semmai la domanda dovrebbe essere un altro: era necessario il segretario di Stato al mattino a Potenza? Ed era necessario? Stiamo inaugurando, per l'inaugurazione del primo Bambin Gesù del Sud, destinato a rispondere ai viaggi della speranza e impedire che centinaia di famiglie si muovano, spesso inutilmente, per venire a Roma. Direi che è un motivo sufficiente e, se mi permette, ancor più degno rispetto a quello istituzionale per legittimare l'uso dell'elicottero. Ecco, ma a proposito di rapporti con il Cardinal Bertone, come è nato il vostro rapporto? Era il 2004, io ero direttore generale della Regione Liguria, a Genova, non conoscevo il Cardinal Bertone quando fui convocato in udienza per il Cardinale, che mi chiese di occuparmi dell'ospedale Galliera, uno grande ospedale di Genova di cui l'arcivescovo è presidente, che aveva dei problemi di carattere gestionale e aveva bisogno di un piano di sviluppo. Ecco, ma quindi lei è un bertoniano, diciamo, si può dire? Era il 21 maggio del 2008, alle 9 del mattino bussano a casa mia due finanzieri e mi arrestano, io non so il perché. Alla fine di quella giornata dopo aver fatto leggere le carte a ben tre penalisti, il cardinal Bertone esce con una nota della sala stampa Vaticano in cui mi conferma totale fiducia, una fiducia che dura 5 anni e che fino a quando la Corte di Cassazione non spazza via questo castello di falsità parlando di aberrazioni giuridiche, di congetture e di assenza probatoria. Come si fa a non essere bertoniani? Insomma, con Bertone segretario di Stato, lei era il manager numero uno del Vaticano, della sanità del Vaticano. Sì. Ecco, professor Profiti, però visto dal suo punto di vista, qual è stata la difficoltà maggiore del segretario di Stato Bertone durante il pontificato di Papa Ratzinger? Sono le stesse difficoltà che sta incontrando Papa Francesco, che sono uguali a quelle di Papa Benedetto, ovvero le difficoltà legate all'avvio e allo sviluppo e al portare avanti un grande processo di cambiamento attraverso riforme sulla, si pensi alla pedofilia, la riforma sulla trasparenza delle finanze, il ridisegno del ruolo e della struttura della sanità cattolica. Senta, ma Papa Benedetto si occupava anche della gestione come sembra fare Francesco o no? Papa Benedetto dava le indicazioni e sceglieva le soluzioni. Ma quindi il cardinale aveva mano libera, faceva come voleva oppure no? Doveva rispettare le indicazioni di Papa Benedetto e applicare le soluzioni che sceglieva Papa Benedetto. Sì, quindi il ruolo più difficile, insomma, dare esecuzione. Senta, ma Bertone aveva più amici o più nemici in curia? Beh, il cardinal Bertone ha quei pochi amici e quei tanti nemici che chi deve dare le gambe a un percorso di cambiamento inevitabilmente attira. Senta, sembra però che prima del conclave si sia trovata quasi l'unanimità contro la gestione di Bertone della Chiesa. È vero o un segno della lotta interna alla curia? Beh, allora è il segno più che altro del fatto che il cambiamento aveva iniziato a funzionare. Però dalla intercettazione si capisce che tra i cardinali la lotta è durissima, è così? Direi più sul metodo e forse sulla scelta degli uomini che sui presupposti che sugli obiettivi. Però, per esempio, per essere concreti e chiari, tra Bertone e il presidente d'ACE Bagnasco c'è stata una concorrenza fortissima nel gestire i rapporti con la politica italiana, è così? Beh, lo chiede a me, ne hanno parlato i giornali di tutto il mondo. Quindi è vero. Senta, ma parlando con lei, Bertone che dice, queste sono le intercettazioni, che il Bambin Gesù, il suo ospedale, vince 65 contro il Gaslini di Genova, parlando dei milioni di euro ottenuti dallo Stato, non denuncia una rivalità, una fortissima rivalità? Ma veramente non ero il cardinale, ero io a parlare, il risultato era 85, ma non era una mia frase. Io mi limitavo a riportare al cardinale il titolo di un articolo che era apparso in quei giorni sul Secolo XIX di Genova. Le ricordo che l'unica frase dell'intercettazione che il cardinale pronuncia è, con un sorriso che mi permetto di dire amaro, constatare l'assenza di volontà in Genova a una collaborazione tra quelli che sono i due più grandi ospedali pediatrici. Quindi era il segno di questo conflitto, però. Ecco, professor Profiti, in tutto questo lei è stato per 7 anni alla guida del Bambin Gesù, l'abbiamo detto. Ha detto che quello è stato il culmine della sua carriera, lo è stato? No? Certo che lo è. Perché? Perché ha realizzato il sogno di ogni manager, la libertà di disegnare una visione, il potere e i mezzi di renderla concreta. Ecco, quando nel 2008 lei è arrivato, ha detto che sognava di fare del Bambin Gesù uno dei 3 o 4 punti di riferimento mondiali nel campo della ricerca e della cura della patologia pediatrica. C'è riuscito? Sì, direi che i numeri sono lì a testimoniarlo. Oggi l'ospedale Bambin Gesù ha 4 sedi a Roma, 7 in Italia, 17 tra sedi e iniziative all'estero. È il principale centro di ricerca e cure pediatriche d'Europa, sia come strutture che come produzione scientifica. Direi di essermi avvicinato molto all'obiettivo. Ecco, ma qual è la cosa che è più fiero di aver fatto? Ma la sintetizzerei con una frase che di loro pugno hanno voluto apporre gli ispettori statunitensi della Joint Commission International alla fine della loro valutazione. Gli italiani dovrebbero essere fieri di un'istituzione come Bambin Gesù e, aggiungo io, di quanti vi l'hanno lavorato e vi lavorano oggi. Senta, l'errore invece che le pesa di più di aver fatto? Avrei pensato che tutto quello che ho costruito fosse parte di un processo irreversibile. Ah, proprio si pensava eterno. Senta, professor Profitri, lei, uomo di Bertone, però nel 2014 è stato riconfermato dal nuovo segretario Parolin per i prossimi 3 anni. Allora perché ha lasciato prima? Si è chiuso un ciclo, tanto per me professionalmente quanto per l'ospedale, se ne apriva un altro, era giusto che questo ciclo, insomma, vedesse nuove visioni, nuove idee e nuovi attori. Sì, però il nuovo consiglio di amministrazione non ha approvato il bilancio del 2014, quindi un atto contro di lei. Minoli, vedo che non è informato sul perché? Punto. Perché il bilancio dell'ospedale 2014 è stato regolarmente approvato, testimoniando anche un'eccellenza nella gestione, ovviamente mi riferisco non a quella economica ma a quella clinica e scientifica. Quindi l'ho letto, hanno scritto delle cose sbagliate. Senta, ma il rinnovo di Parolin che le è stato fatto è stato un rinnovo vero oppure è stato un rinnovo con l'impiego poi a lasciare, come si fa spesso nella Chiesa? Beh, un rinnovo di un segretario di Stato non può che essere un rinnovo vero. Ma se il Bambin Gesù è l'eccellenza mondiale che tutti riconoscono, perché abbandonare? Perché si era chiuso un ciclo. Cioè, finita un'epoca. Beh, Minori, io sono presuntuoso, alcuni dicono molto presuntuoso, ma presuntuoso al punto di pensare che andando via finisca un'epoca, non ci sono mai arrivato. Fin lì non ce l'ha fatta. No, assolutamente. Senta, ma si sente in pace con la sua coscienza oppure no? Assolutamente sì. Sì? Ma la sua esperienza di vicinanza così prolungata ai vertici vaticani ha rafforzato o raffreddato la sua fede? Rafforzato. Perché? Perché ho potuto toccare con mano che quello che oggi viene pubblicato sui libri o sugli articoli, soprattutto in questo periodo, non ha alcuna corrispondenza con la verità. La mia esperienza diretta di un uomo che non veniva dall'ambiente di chiesa e che vi entrava per la prima volta è stata quella di vedere persone che a tutti i livelli, e anche sbagliando, messi di fronte a una scelta, operavano sempre la scelta che avrebbe favorito il terzo, avrebbe fatto il bene del terzo, ripeto, a volte anche prendendo una soluzione che noi laici tecnicamente potremmo definire sbagliata. Senta, oggi Papa Francesco dice però che le spese del Vaticano sono fuori controllo e se non riusciamo a gestire quelle, come facciamo a guidare i credenti? Beh, è un'autocritica forte però. Beh, è un principio, diciamo, dell'economia aziendale, della contabilità. Le spese per definizione possono essere gestite sempre meglio, così come credo che sottintendesse Papa Francesco, anche i credenti devono essere guidati sempre meglio. Ma il rapporto con il denaro, che è necessario però è corruttore, è stato da sempre la dannazione della Chiesa. Papa Francesco ha messo il dito nella piaga lì. Papa Francesco ha perfettamente ragione quando invita a considerare il denaro un mezzo e non un fine. Aggiungo io che i momenti più problematici nel rapporto tra Chiesa e denaro sono stati quelli nei quali si è perso anche il collegamento tra il fine e il mezzo, l'equilibrio etico che deve legare il fine e il mezzo. Non è vero che tutti i fini possono giustificare qualunque mezzo. No. E il Papa ha due ruoli, quello di Pietro e quello di Paolo, cioè l'istituzione Pietro, la rivoluzione continua Paolo. Papa Francesco è tutto Paolo? No, Papa Francesco è Pietro e Paolo, come tutti i papi. E come tutti i papi a dose diversi di Pietro e di Paolo. Ma nella sua rivoluzione verso una chiesa povera per i poveri, come dice il Papa, lui dice anche non si può vivere come faraoni e parlare di povertà. Ecco, sono molti cardinali che vivono come faraoni. Non quelli che ho conosciuto io. No? No. Il Papa quindi dice una cosa... Non credo che si rivolgesse ai cardinali. A proposito di spese fuori controllo, lei sapeva che Bertone, da segretario di Stato, doveva attingere alle risorse dell'obolo di San Pietro per garantire il mantenimento della Curia Romana? Come chi legge i bilanci, come tutti coloro i quali leggono i bilanci vaticani, anch'io sapevo che il cardinale Bertone, come tutti i segretari di Stato prima di lui, aveva la necessità di attingere una parte dell'obolo vaticano per coprire delle spese di funzionamento dello Stato Città del Vaticano. Ecco, ma perché è stato necessario l'arrivo di Papa Francesco per scoprire che i soldi del Vaticano erano gestiti male? La scoperta era già avvenuta prima, sicuramente l'arrivo di Papa Francesco ha aiutato il processo? Assolutamente. Ecco, ma quindi erano veramente mal gestiti? Beh, diciamo che avrebbero potuto essere gestiti meglio. Ma c'è una mancanza di professionalità specifica? Sì, c'è una mancanza di adeguatezza a quelle che sono le complessità della gestione moderna. Ecco, ma parliamoci chiaro, ne ha visti tanti di ladri in Vaticano? Beh, molto meno degli altri posti che ho frequentato. Quello che ho visto in quantità leggermente superiore sono gli incompetenti. Molti dicono che Papa Francesco ha ragione, ha una grande visione ma sceglie male le persone, è così? Papa Francesco, come ha detto lui, viene dalla fine del mondo con una visione della Chiesa profetica straordinaria. Pietro, per intervenire e cambiare l'organizzazione, ha bisogno di tempo. Quindi resta il fatto che chi ha rubato, come ha detto il Papa, e poi divulgato documenti riservati, sono persone scelte da lui, quindi insomma qualche dubbio. Beh, questo significa sulla capacità che Pietro, di scegliere. Questo significa che Pietro ha bisogno deve di molto tempo. Deve camminare ancora un po'. Senta, cioè intorno a Santa Marta c'è quella confusione di cui si parla molto sui giornali oppure no? Beh, c'è una confusione bellissima, ma direi che è un termine che affiancherei più che altro a una sorta di entusiasmo. Mi rendo conto da manager, quindi da gestore di organizzazioni, che per un'organizzazione complessa come quella del Vaticano questa confusione sono presenti dei problemi che noi laici definiremmo di governance. Ma il caos non può essere anche uno strumento per sparigliare tutto tutto un mondo che è bloccato? Cioè, allora tanto un di caos per costruire l'organizzazione. Allora tanto di cappello al manager che ha pensato questo. Adesso, oltre alle critiche violente agli stili di vita, abbiamo detto prima, il Papa dice anche però che è vero che la Chiesa ha tanti beni, ma servono per assistere chi ha bisogno. È vero? È vero. E quanto è vero? Tra il samaritano che taglia in due il mantello per darlo al povero nudo e la raccolta fondi per andare a realizzare un ospedale al sud che impedisce nel terzo millennio gli inutili viaggi della speranza, io vedo lo stesso spirito, la stessa azione caritatevole della Chiesa esercitata in due modi diversi. Ecco, il Papa dice anche però che bisogna rivedere i rapporti tra la Chiesa e gli Stati, quindi vuol dire basta concordato? Vuol dire accordi più chiari e trasparenti nel riconoscimento dei reciproci ruoli. E quindi un concordato da rivedere? Come tutti gli accordi arrestati, in un contesto che cambiano, necessariamente hanno bisogno di rivisitazioni periodiche. Ovviamente è un periodo storico e non è quello della cronaca. Ma per esempio l'IMU e la TASI, per essere concreti, andrebbero pagati senza esclusioni? Sulle attività commerciali IMU e TASI vanno pagati da chiunque, senza se e senza ma. Quindi anche dalla Chiesa? Senza se e senza ma. Ma la Chiesa incassa 1.200.000.000 per l'8 per mille dai cittadini italiani. Ecco, come vengono spesi questo 1.200.000.000? Non mi sono mai occupato di queste questioni. Queste sono questioni che riguardano la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Sì, per legge però devono essere spesi in Italia, così, per quello che ne sa. Le ho detto che io non mi sono occupato di queste questioni, le chiedo a chi se ne occupa. Va bene, proveremo. Senta, è da conservare quello dell'8 per mille come meccanismo oppure nella Chiesa di Francesco è superato? Ma io credo che come tutti i meccanismi vada valutata la stregua di una possibile alternativa. Si studi l'alternativa prima di cambiare il sistema. Lei l'ha incontrato spesso il Papa? Una volta sola. E che impressione ha fatto? Era la visita al Bambino Gesù. Quello che mi ha colpito in modo particolare è stata la sua trasformazione, cioè? Dal rapporto tra me, e quindi tra l'istituzione, e il contatto con i bambini e con le famiglie sofferenti. Cioè trattati in modo diverso? Sì. Non trattati in modo diverso, un uomo diverso. Un uomo diverso. Senta, quanto a lei, in un'intercettazione sembra che parlando con il Cardinal Versaldi vi diciate che è meglio non parlare con il Papa di una somma di 30 milioni di euro di finanziamento in arrivo per risolvere i problemi dell'IDI. Perché avete scelto di non parlarne al Papa? Beh, direi che come i fatti e le inchieste hanno dimostrato, oltre al di là dell'intercettazione, non si stava parlando di fondi, ma si stava parlando di una possibile soluzione legislativa come quella legata ai fondi. Un'idea che il Papa avrebbe scartato e, su suggerimento saggio del Cardinal Versaldi, è stato opportuno non far perdere tempo al Santo Padre proponendogli una soluzione che non era certamente nelle sue corde. Non è che invece pensa di aver perso lì la fiducia del Papa? Eh? Non so se ho mai perso la fiducia del Papa. Oggi, da libero professionista, ex ministro della Sanità del Vaticano, che consiglio darebbe per rendere più efficiente il sistema sanitario cattolico? Apertura a nuove professionalità, per una complessità che è parte del mondo moderno, apertura alle nuove fragilità, l'abbandono dei vecchi settori. La Chiesa era forte nella sanità perché c'era quando non c'era il pubblico e quando non c'era il privato. Adesso nella sanità pura c'è il pubblico e il privato, ma ci sono nuove fragilità, viviamo più a lungo, esprimiamo bisogni diversi e altrettanto complessi. Sono fragilità di cui non si occupa né il privato nel pubblico. È su quella frontiera che deve spostarsi e riconvertirsi la presenza cattolica nella sanità o nel socio sanitario. Ecco, anche nella sanità cattolica però sembra che ci sia uno scontro tra Roma e Milano, molto di moda lo scontro fra Roma e Milano, diciamo, anche lì c'è. No, non c'è uno scontro tra Roma e Milano, c'è uno scontro tra una sanità cattolica e una sanità non cattolica. Cioè c'è un assalto da parte del privato alla sanità cattolica, che è in difficoltà, l'ha detto lei. Sì, sì, c'è un assalto a una sanità cattolica che è in difficoltà, San Raffaele, Idi, Donuva di Bisceglie, sono stati occasioni nei quali la sanità cattolica è intervenuta con lo scopo, unico scopo, non certo di creare un gruppo di potere, ma semplicemente quella di favorire, di salvaguardare patrimonio culturale e posti di lavoro. Credo che lo testimoni il fatto che non si è mai partecipato ad alcun tipo di contesa, contrariamente a quanto viene sostenuto. E invece la sanità privata è all'attacco su queste fragilità. Decisamente. Disperdiamo un patrimonio che va al di là del semplice valore economico, ma disperdiamo ogni qualvolta chiude una congregazione, chiude una grande istituzione, quello che si disperde è anche un valore storico, tradizionale, una ricchezza valoriale che non si recupera più. Senta, professor Profitti, le faccio un'ultima domanda. Chi vincerà nella Chiesa di Francesco? Beh, Minoli, questa è una risposta che è una domanda che da 2000 anni ha sempre la stessa risposta. Il Papa Francesco. Grazie, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Mario, che titolo fareste intervista? Ma un'intervista fantastica, perché guarda, ho un titolo. Dai. Non guadagni ma profitti. Carina. E tu Pietrangelo? Io farei così. Bertoniani si nasce e lui coraggiosamente lo nacque. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms. E allora andiamo con la canzone. Fatalità è fatale, è una femmina che si fa fato, insomma, quando incontra qualcuno lo finisce prima ancora di cominciare. La femmina che si fa fato non è una smorfiosa, sa falsare il colore dei propri occhi, quello del proprio cuore, spezza il cuore degli altri, sempre, di chiunque si avventuri. E dunque oggi al centralino ha chiamato Corradino, non ho capito bene il cognome, non lo so, uno che si chiama Corradino, ha chiesto questa canzone per una donna bella e decisa di nome Margherita, ma non è quella di Bulgakov, e quindi Corradino dedica a Margherita. Una femmina fatale. Fatalissima. Giuliano da Roma, mi critica tantissimo, dice un'intervista, non è un'intervista ma un umile presa d'atto di dichiarazioni di parte senza contraddittorio. Allora io lo invito a venire a fare un'intervista con contraddittorio, caro Giuliano, perché le domande mi sembrava che ci fossero tutte e anche un po' di più. Comunque, tot capita, tot sentenzia. Vai, bolla. Il danno della democrazia. Vai con Bill Conti, va a salire, vai in regia. Giovanni, io devo fare una piccola discussione con voi, cattiva, non lo so, forse sì, forse no. Di sicuro c'è che nel 2016 c'è un turno amministrativo, parlo di elezioni. Certo, naturalmente. Molto importante. Allora, io ho incontrato Maroni questa settimana che mi ha detto, ma se Renzi perde alle amministrative deve dimettersi. La risposta è arrivata subito a stretto giro. Dice Renzi, o da Repubblica lo traggo, io mi gioco tutto al referendum, se lo perdo vado a casa. Questo discorso invece non vale per le amministrative. So che è una partita in salita, ma non possiamo uscire sconfitti in tutte le città. Allora, qua il tema si pone, perché se perdi a Milano, Se perdi a Napoli, se perdi a Torino, e ti ricordo che si vota anche a Roma, così. E forse anche in Sicilia. E forse anche in Sicilia, no? E che cosa fai? D'Alema si dimise per molto meno. Tu dici che non ti dimetti? Non lo so, certo può farlo, ovviamente. Però sei anche il segretario di un partito. Se dovessi andare incontro Renzi a una sconfitta, che fa? Resta? Mi chiedo, tu che cosa faresti? Sarà dura. Anche perché, aggiungo, ma può sempre vincere però, assolutamente, ecco. Sì, può esiste sempre anche quell'alternativa. Esiste lì. L'alternativa che vinca, ci mancherebbe altro, anzi, voglio dire, però, cioè, escluderla così è un serio problema, secondo me, dal punto di vista politico, anche perché, aggiungo, last but not least, cioè, è l'ultimo, ma in realtà forse il primo, Renzi, insomma, a Palazzo Chigi non ci è arrivato con il voto. E certo, quindi il problema della legittimazione, quindi, me, è come quello di D'Alema all'epoca delle regionali di allora. Comprensibile la sua mossa, ma se dovesse accadere, cosa che nessuno si augura, diciamo così, e beh, forse alla fine il segretario dovrà pur prenderne politicamente atto. Ecco, no? Continuano gli SMS di insulti, però firmateli per favore, perché quando volete insultare, se mi però volete dare legge, del clericale, che sono curioso. No, dice che sono clericale, va bene, insomma. E un altro invece, Ciro La Rocca, invece dice: il Bambino Gesù è un'eccellenza a livello mondiale per la chirurgia. Posso mia figlia è la prova. Vabbè, testimonio almeno, anch'io che almeno è così. Vabbè, insomma. Siamo di nuovo lì, ognuno con la sua testa, come direbbe Pietrangelo, è il bello della democrazia. No, però bello aspetta. Non l'ho detto. Scusa, Giovanni. Danno ho detto. No, su questo. Hai detto Dave, ho capito bello. Posso dire una cosa su questo? Sì. Allora, le opinioni sono una cosa, vanno bene, la democrazia, figuriamoci. Infatti. I fatti sono altri. Io avevo mia figlia che rischiava la vita e il Bambin Gesù le ha dato una nuova vita. Quindi questi sono fatti, sono un'altra cosa. Dunque, intanto, per restare nella politica politicata di questi giorni, dopo lo scontro a distanza con l'esecutivo e l'incontro con il Premier, incontro chiarificatore, insomma un po' simpo, no? Vedremo, sulla legge di stabilità, Sergio Chiamparino ha detto a Repubblica che Renzi fa bene a non seguire la logica del PC, che si preoccupava di non avere nemici a sinistra. Ecco, Presidente Chiamparino, lei ha anche detto di essere un renziano diverso, dimissionario, anche dopo l'incontro con Renzi, diverso, molto diverso allora? Beh no, diverso perché diciamo, ritengo persino utile poter dire le cose che penso, anche quelle che non gli piacciono. Senta, non concorre, però. Ma perché mantiene le dimissioni? Perché mantiene le dimissioni? Ah, beh, quello per, come ho già detto, perché mi sembra che dopo due finanziari in cui in qualche modo le regioni sono quelle che hanno sofferto di più, hanno avuto più tagli, si impone una verifica politica sulla effettiva capacità. E quindi diciamo quella è la ragione delle dimissioni che restano. E quella dell'irrevocabilità, no, questa è la ragione delle dimissioni per consentire una verifica. Quella dell'irrevocabilità è che io in ogni caso, dato che ritengo che il sistema delle regioni abbia bisogno di essere profondamente cambiato, ripensato, perché non si può fare a meno di livelli istituzionali intermedi, voglio tenermi le mani libere, che uno non può avere se fa il coordinatore di certo altre regioni. Senti, Renzi aveva detto: incontrerò il presidente della regione, ci divertiremo. Vi siete divertiti mercoledì? Qualche battuta è stata anche divertente. Sì, ma qual era l'arma letale di Renzi? Quella di invitarvi a invitarla a Leopolda? No, quella è stata la battuta conclusiva che ha chiuso, diciamo, anche simpaticamente, oltre a un 5, l'incontro tutto sommato credo proficuo. Ma ci andrà la Leopolda? Ma guarda, se non ho impedimenti di forza maggiore, adesso non so quando sarà, quindi bisogna vedere se non si incrocia con qualche cosa della regione a cui non posso rinunciare volentieri. Insomma, forse sì, forse no. Senta, anche quest'anno vado più, no, quest'anno se non ci sono impedimenti vado più volentieri degli altri anni, proprio per questo. Per questa ragione. Per sottolineare questo diversamente. Senta, ma con Renzi si può sfuggire alla logica del con me o contro di me? Ma io come vede, l'ho detto. Cerco di farlo. cerca di farlo. Senta, ma Renzi segretario del partito le piace di più o meno del Renzi presidente del Consiglio? Secondo me è sempre più difficile distinguere i due livelli, perché i partiti sono in funzione delle indicazioni per governare le diverse istituzioni, quindi sono identici, insomma, si sovrappongono. Oggi i partiti non si muovono più come un tempo con la loro autonomia rispetto alle istituzioni, certo. E non è neanche detto che questo sia un male. Senta, ma c'è davvero una mutazione genetica nel PD? Beh, certamente una mutazione c'è, poi la genetica dipende anche dagli anagrafi, certo. Ma è in meglio o no questa mutazione? Ma complessivamente io ritengo che sia in meglio, perché come dicevo, per quanto non sia più un ragazzino, mi considero per certi aspetti un anticipatore di questa Vogue. Di questa stagione, regia. Insomma. Dopodiché, però, certo, ho anche fatto nell'intenzione di dire qualche esempio, io su alcune cose ritengo che avrei fatto scelte diverse. Tipo, me ne dice due? La tassa sulla casa io non l'avrei tolta, soprattutto non l'avrei tolta adesso, avrei usato gli stessi soldi per ridurre ancora il costo del lavoro. E il secondo punto è questo, cioè la casa, poi volendo sta questione del contante mi fa sorridere perché... Cioè lei è contro i 3.000 euro, la soglia del 3.000. Io dico una cosa, o mi si liberalizza tutto, perché un esponente di un'associazione professionale un giorno in un incontro, quindi immagino seriamente, mi disse che mi fa un po' così a mezza voce, e ci sono poi quelli che hanno le amanti o quelle che hanno gli amanti e quindi non vogliono... E allora io dico, se è così, allora perché uno deve avere un amante limitato a 3.000 euro? Senta Chiampelli, detto senza scherzare, se è un principio di libertà, allora ci deve essere tutto libero e poi bisogna punire seriamente chi evade, il nero. Così mi convince poco. Un segnale dato a una componente del governo. Lei ha mai pensato di uscire dal PD? Oh, perché? No, senta, ma alla fine, per chiudere... C'era stata l'epoca bersaniana in cui avevo avuto difficoltà, in cui credo che per un anno non avessi addirittura rinnovato la tessera, anche se qui le tessere ormai vanno e vengono. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms. Prima del salamino ancora un sms di Massimo Spelta, dice anche lui vuol fare un titolo all'intervista e dice irritante. Beh, irritante almeno l'ha ascoltato, almeno tutta l'ha ascoltato. Insomma, se è irritato va bene. Allora, salamino. Chi di qualunque mente ferisce, di qualunque mente perisce. A che tempo che fa che sarebbe la messa cantata del regime, è andata in onda la beatificazione di Giuseppe Sala, il manager di Expo, lanciato da Matteo Renzi per la campagna elettorale di Milano. Ma tutto il problema è sempre la costruzione dell'immagine, cioè se essere quell'essere telegenici, insomma. Per prima cosa bisogna essere fotoginici. Fotoginici? Nel senso che bisogna andare sempre in palestra? No, figlia, ma quale palestra è palestra? Fotoginico! Nel senso che bisogna venire molto, ma molto bene nella fotografia. Molto, ma molto bene nella fotografia, molto, ma molto bene in video, quindi teleginnici nel senso che è stato tutto un prodigio di agilità dorsale quello che hanno fatto i comici di sinistra ieri, gli stessi che un tempo lanciavano strali contro il bagaglino accusando il famoso cabaret romano di fare da spalla al potere, con tanti esempi, per esempio il primo. Scendiamo in sala ad accogliere questa sera un ospite straordinario, eccezionale, indovinate qui, il presidente Giulio Andreotti. E questo è il primo per esempio. Poi ci fu un secondo per esempio. Troppo presto? No, è sempre troppo tardi. Per che fare? Pannatene. No. E volevo dire che è troppo presto, ecco, in effetti è un po' presto. prestino, onorevole. Allora magari faccio prima un salto al partito. Senti un po'. E questo era invece Bettino Craxi. Poi arrivò Silvio Berlusconi e il bagaglino insomma andò in cortocircuito perché non si capiva dove cominciava la scena, dove finiva la realtà. Era tutto e insieme. Tutto insieme venne adesso a questa nuova stagione dove chi di qualunque mente ferisce, di qualunque mente perisce. E ieri l'applauso di Cettola qualunque a che tempo che fa nella beatificazione di Sala ha avuto una concelebrazione perché oltre a lui c'era ovviamente Fabio Fazio che così può giustificare il suo ricco contratto e Antonio Albanese purtroppamente comunque qualunque mente qualsiasi si è prestato ieri all'epifania di Sala il commissario Expo collocato in scena per l'operazione simpatia si è detto pronto a correre al sindaco di Milano però un po' no un po' forse sì. E cosa disse Mario cosa disse che dici insomma che lui è pronto però non è proprio cioè voglio dire ha sì, dato no, la disponibilità di base sì ma quello ora non è Pertusella come dicevamo stamattina base no? Altezza dai. Base altezza un'ipotenusa così gli arriverà dalle primarie meno male che non c'è il video. Dopodiché, ancora una volta, che cosa ha detto il nostro Albanese? Applauso! Oh, e quindi, applauso, applauso, tutto sopra applauso, Albanese qualunque mente lo incensava di spirito davvero? E di patate. Sai che me lo son perso? E sì, una scena terrificante, perché Sala forse diventerà... Bravo, però, certo. Sala, infatti, forse bravo, diventerà sindaco, ma di sicuro questa Albanese ieri ha smesso di essere comico. E che cosa ci portò? Ci portò un biberò! Viva il bagaglino a questo punto. Insomma. Sì. 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 l'SMS. Io dico stecca parla per tutti. 20 milioni. E il resto lo reinvestiamo. Lo reinvestiamo che? Progetto comune. Una cosa grande. Droga, armi, azzardo. Poi si vede. Come la mafia in Sicilia. Come la camorra a Napoli. La Libania, ma quando stiamo a Napoli? Stiamo a Roma. E quella se demo via, Bufalo. Quello è il progetto comune. Piamo se Roma. E piamo se l'amore, prima che lo faccia qualcun altro. Sto colpo è riuscito perché l'avevamo fatto tutti insieme. E così deve continuare. Un'intesa tra pari livello, tutti i capi. E nessun servo. Adesso in poi le decisioni si prendono tutti insieme. Il 30% va a te e il 70% a noi. Di che te sta bene? Mi sta bene. Piamo se Roma, romanzo criminale, una serie TV, un film di successo, racconto la storia della banda della Magliana, la banda più spietata degli anni 70. Poi la realtà supera la fantasia degli sceneggiatori. E il 2 dicembre del 2014 il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone presenta l'indagine su Mafia Capitale. L'indagine di oggi si individua un'altra associazione che noi abbiamo definito Mafia Capitale e che presenta carattere di originarietà e di originalità. Originarietà perché è un'organizzazione romana, senza collegamenti con le altre organizzazioni meridionali classiche, con cui però ha rapporti su un piede di parità. Originalità perché ha caratteri suoi propri, diversi da quelle delle altre organizzazioni classiche meridionali, e collegate e derivanti questi caratteri di originalità proprio dal fatto di essere romana. Questo è appunto quello che avviene con l'organizzazione che fa capo a Massimo Carminati, che sfrutta ovviamente il prestigio criminale che gli deriva dal suo passato nella banda della Magliana e nelle versioni di destra. Italian Tabloid, i segreti della banda della Magliana, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Mix 24. Continuano le reazioni all'intervista. Fabio, ecco, no? Di buone, di cattive, ma mi interessano le cattive. Fabio che scrive che intervista è ipocrita e vomitevole. Ma quelle sono domande. Minoli, non abbia timore referenziale. E allora io chiedo a Fabio, Giovanni Minoli 45@gmail.com è la mia, il mio indirizzo mail. Se mi manda le domande che mancavano, magari imparo qualcosa. Grazie. E allora ancora una bolla. Sì, dai. Senti che giro di chitarra. Basso sotto, vai. Soul to Squeeze, Red Hot Chili Peppers, vabbè, per gli amanti del genere, ancora poco poco. Che meraviglia. Sai che è finita l'era dei BRICS, Giovanni? Sì. Perché? Ti ricordi quando si diceva che Brasile, Russia, sì, India, Cina e Sudafrica erano il futuro? Lo sono ancora in parte, ma in realtà, insomma, quel... l'acronimo che era sinonimo di ricchezza, di avvenire, coniato da Jim O'Neill nel 2001, è finito. Sai, Jim O'Neill era in condanna di Goldman Sachs. Sai che Goldman Sachs ha tagliato dell'88% i suoi investimenti nei BRICS. Il picco fu nel 2010, è cambiato il mondo. La ruota gira, però bisogna stare molto attenti, secondo me, perché se non compra nessuno l'export che fa? Sì, poi sai, se i BRICS vanno male non è che va molto meglio per noi, quindi ecco, bisogna stare attenti. Venerdì scorso abbiamo mandato la storia di Fred Buscaglione. Simonetta ci scrivi, volevo segnalare la morte di Fausto Rizzi, trombettista di Fred Buscaglione, e quindi noi citiamo questa cosa che ci dice Simonetta. Grazie. Il canzoniere. Diverso esilio, per cui bello di fama e di sventura, baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse. Allora, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Giovanni. E l'SMS, speriamo che indovini. Non mi fai ancora una bolla, Mario? Tu fai una bolla, io te la faccio. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata. Sai quanto hanno raccolto, quanto raccoglieranno da qui al 2022 il sistema bancario globale in debito pubblico? Quanto? Un trilione. Accidenti. Laura Vettori, Laura Vettori mi tira un po' sul morale, dice: buongiorno Minoli, per l'intervista ho mal di stomaco, ma non per colpa sua. Invece Giampaolo dice: albanese con Sara da Fazio, alla faccia del servizio pubblico, grande buttafuoco, un mito. Giampaolo, hai visto qualcuno che ci dice ancora qualcosa? Ha telefonato qualcuno per indovinare a proposito questo fantastico canzoniere? Facciamo sentire ancora una volta, intanto non c'è speranza. Ma no, è facile. Abbiamo cambiato pubblico quest'anno, è chiaro oramai. E no, è Renzi che sta al governo e succedono queste cose. Lo so, sì, vabbè. Sempre dalla colpa agli altri. Esilio, per cui bello di fama e di sventura, baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse. Vabbè, 800 24 00 24, lo dico così perché intanto non ho speranza. 349 238 6666, l'SMS. E per chiudere, Mina, magica follia. Magica follia, io sentirmi tu, urlare che mi ami a dispetto delle convenzioni, perché la carne, carne vive solo d'emozioni e solo.